Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, eccoci qui, sono le 8 e 20 minuti. Eccoci qua in questo 6 dicembre, carissimo Alessandro. In questo 6 dicembre, io devo dire, oggi è un santo per me di particolare importanza. Ah, perché sì. San Nicola, a parte che San Nicola nella geografia cristiana è uno dei santi più venerati in tutto il mondo, Santa Claus nasce di lì nel nord Europa, in realtà lui è un turco del IV secolo, un vescovo che poi finisce a martire, ma tra le tante cose, sai che è molto venerato a Bari perché nel 1079 i baresi, siccome c'erano i musulmani ormai in Turchia, prendono le spoglie e le traslano a Bari ed è veneratissimo, i veneziani fanno lo stesso la prima crociata, ma al di là di tutte queste storie, quindi c'è un pezzo delle spoglie di San Nicola anche a Venezia, sul Lido, la chiesa di San Nicola a Lido, ma detto questo, perché è molto importante, perché è un santo tra cui tanti miracoli, se ne ricorda uno che mi è molto caro, perché siccome la città di cui era vescovo, la città di Mira in Anatolia, in Turchia, era gravata da tasse, guarda che allora non proprio basse, il vescovo chiede udienza all'imperatore a Costantinopoli e gli dice: guarda, qui non si può proprio, devi proprio temperare, mettiti una mano sulla coscienza, i tuoi doveri, devi tagliare le tasse. Il vescovo pare che non fosse molto d'accordo, perché l'amministrazione tributaria diceva no, perché se le abbassiamo a questo bisogna abbassarle a tutti. Insomma, come vedi, i problemi sono simili. Alla fine l'imperatore crede di farlo fesso, dandogli una concessione, dice no, va bene, d'accordo, vedremo. Però gli dice, certo però sai che se anche localmente i funzionari obiettano che le casse restano vuote, non si può fare. Il miracolo è che a quel punto San Nicola riesce a trasmettere miracolosamente il messaggio dell'imperatore ai funzionari che si convertono, e a quel punto l'imperatore resta buggerato e le tasse le deve abbassare. Qual è il messaggio che la Chiesa ci manda? Che per avere veri tagli delle tasse, come vedi, servono due cose: primo, santi in paradiso, secondo, miracoli, perché altrimenti non avviene. Vedi la Hunziker, perdona se te lo dico, ne hai parlato nella segna stampa, la Hunziker, Bianca Balti, e attenzione, tantissime partite IVA note. Perché se sei noto, sei costretto a pagare l'IRAP che lo Stato ti contesta e ti vuole che tu paghi, anche se tu non hai una stabile organizzazione. E perché lo paghi comunque? Perché altrimenti finisci nei giornali come sputtanato evasore. Ecco, il caso della Hunziker, in Cassazione ha ragione, però è da anni che lo paga un'imposta che non doveva pagare, lei come tanti altri. Tante partite IVA note, sottolineo quattro volte e si capisce perché mi scaldo su questo argomento, la pagano per questa stessa ragione, per evitare la messa in croce, tanto per rimanere cristiano, giudiziale. Perdonate se come al solito torno su questi argomenti. Allora. Oggi bisogna ricordare alcune cose. Primo, il nostro, lo faccio per ridere, giornalisticamente amico Di Pietro, oggi pensa al 94, quanti anni sono passati e si metteva dalla magistratura. Incredibile a dirsi, a me sembrava ieri e invece non è esattamente così, per così dire. Nel 49 nasceva Paolo Berlusconi e soprattutto nel 59 si inaugurava il San Paolo di Napoli. Bene, allora. Alle 8 e 24 minuti siamo qui con il numero di telefono che vi diamo, 800 24 0024. A Milano c'è un nebbione di quelli, io di recente che qualche bello. Amico ha detto a Milano non c'è più la nebbia da anni, c'è un nebbione che è un po', se fossimo a Roma, rappresenterebbe, come dire, anche l'attuale situazione politica. Gran nebbione. Che succederà non si sa. Però c'è un grande problema nell'informazione italiana. Forse bisogna che i direttori si disintossichino un pochino. Cioè? Scusami, a me ha lasciato senza parole oggi vedere che il Presidente del Consiglio riesce a far scrivere sui giornali contemporaneamente, lo stesso giorno, sugli stessi giornali a pagine diverse. Sì. Primo, che in realtà ha proposto ai suoi di restare col governo dimissionario e fare le elezioni gestendole lui a febbraio primo, quindi totale contraddizione rispetto a quello che aveva detto. E secondo che invece lo stanno trattenendo perché lui vuole un anno sabbatico lontano da tutto e da tutti. Cioè, cari direttori, ma mettetevi una mano sulla coscienza. Sì, come fate a far scrivere cose così contrapposte? Perché evidentemente non potete dire no a chi da Palazzo Chigi vi dice continuate la scenetta. La mia opinione, Oscar, come l'ho detto varie volte, è che purtroppo ci sono troppi giornalisti nelle redazioni, troppi che scrivono di politica, e quando devi riempire 15 pagine... Ma tu capisci che il contrario di A... diventa surreale. Ci sono purtroppo, lo dico con dolore, alcuni quotidiani che io amo particolarmente, che oggi dal punto di vista così della credibilità, possiamo dire, per esempio la stampa oggi scrive a pagina 3 Renzi voglio un anno sabbatico, me ne vado via da tutto, a pagina 5 Renzi che dice ai suoi elezioni subito a febbraio con questo governo, perché allora... E poi c'è chi obietta con i ministri, dice carissimi, se iniziate a obiettare le partite delle nomine ce ne dobbiamo occupare noi, quale me ne voglio andare su, dai. Comunque, cari italiani, che pensate, se andrà a votare, se andrà votare subito, secondo molti, quello che già ieri dicevamo, caro Oscar, cioè questo 40% di sì, Renzi potrebbe dire, li consideriamo roba quasi sua, tutti nostri, e Lotti lo ha scritto in un tweet, e quindi ripartiamo da questo 40%. Tu lo sai il precedente della scala mobile? Il referendum scala mobile 1985, il PC era praticamente l'unico grande partito a favore della CGIL, contro, era per difendere la scala mobile, il referendum era stato detto la Craxi per l'abolizione del punto unico scala mobile. Al referendum il no all'abolizione prese il 45% dei voti, alle successive elezioni politiche il PC, che anche allora si intestò tutti i voti, prese il 27%, ricordatevelo. No, ma infatti poi bisogna capire di questi 40% di sì quanti sono, quanti hanno votato in quanto plebiscito pro contro Renzi, quanti invece quanti magari per sono la riforma, per la bicameralismo. Però, e soprattutto quanti, vista la pagina intera di intervista di Alfano, credo moltissimi. Per Alfano, perché Alfano si intesta i 13 milioni di voti del no. Alfano. Alcuni di questi, immagino, non tutti. Parla al plurale dicendo i nostri 13. Ah, beh, chiaro, perché nella coalizione. Va bene, invece che vogliono quelli del Movimento 5 Stelle? Vogliamo chiederlo a Danilo Toninelli, che è deputato del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Toninelli e bentrovato. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Allora, voi volete andare a votare subito? Questa è la linea? E se sì, come? Beh, il segnale che hanno dato le decine di milioni di cittadini che hanno votato mi pare chiaro. Nuova Costituzione che è stata bloccata perché era sbagliata e scritta da persone che erano indegne. Un governo che si fondava su quelle che aveva autodefinito riforme. Come si può oggi non raccogliere questo segnale e bivaccare per un anno e mezzo in Parlamento? Io le ricordo anche che 4 anni, 6 mesi e 1 giorno per i parlamentari significa arrivare alla pensione d'oro. Ma infatti oggi, tutto per andare a votare oggi prima. Libero dedica una pagina dando questa data, 15 settembre 2017, è una data secondo Libero in cui 600 tra deputati e senatori maturerebbero il famoso vitalizio. Cioè, la famosa data pensioni a me, elezioni a te. Cioè, esiste secondo lei questo partito trasversale che punta a ciò? Esiste, e come, il Parlamento è fatto per la maggior parte di yes men che non hanno né arte né parte, che votano verde, votano rosso in base a quello che al pollice che alzano i capi politici, e vuoi che non cerchi di arrivare con le unghie e con i denti all'agognata pensione d'oro? Io dico proprio di sì. Voi sapete, abbiamo una bella legge elettorale, l'abbiamo votata con 230.000 votazioni online, un percorso straordinario di partecipazione e di condivisione che non ha precedenti al mondo, ma conosciamo purtroppo anche i nostri interlocutori, ce l'hanno sempre bocciata, hanno bocciato le preferenze sull'Italicum. Se noi oggi dicessimo votiamo la nostra legge, non solo ce la boccerebbero, ma ci porterebbero ad un tavolo di trattativa infinito che arriverebbe fino alla primavera del 2017. Tra l'altro la legge che voi avete proposto viene definita sui giornali Toninellum, non a caso, e Toninelli è colui che è qui nostro ospite, e ecco, diciamo colui che l'ha scritta, nel senso che viene considerata un po' la sua legge. Ma i nomi contano poco, guardi, conta il fatto che sia una buona legge che ha al centro i cittadini, che garantisce rappresentanza. Però mi pare di capire che è stata la linea, è stata abbandonarla, cioè preferite, questo si legge ai giornali, l'Italicum come verrà, se verrà modificato dalla Corte Costituzionale, e magari da estendere anche al Senato. Quello adesso è il vostro punto Ma, di arrivo? Guardi, lei sa perfettamente che probabilmente a gennaio la Corte Costituzionale si esprimerà sulla costituzionalità dell'Italicum. E sa chi ha fatto questi ricorsi? Li ha fatti il sottoscritto, li hanno fatti portavoce del Movimento 5 Stelle in tutte le corti d'appello d'Italia, grazie ai grandi avvocati, tra cui anche quegli stessi avvocati che hanno abbattuto il Procellum, e che oggi quindi porteranno la Corte Costituzionale a intervenire molto probabilmente su tanti punti che riterrà incostituzionale. Quindi dobbiamo dimenticarci dall'Italicum. Ci sarà una nuova legge elettorale per la Camera che sarà costituzionale dopo il vaglio della consulta e che grazie a una proposta di legge che depositeremo oggi o domani di poche righe, dove diciamo che verrà applicata la legge della Camera anche al Senato. Ovvio che non ci piace, non ne siamo innamorati, ma è l'unica via, ripeto, l'unica via per evitare che il Parlamento parli per un anno e mezzo di legge elettorale quando decine di milioni di italiani hanno detto a questa maggioranza di andarsene. Va bene, quindi un Italicum zoppo come verrà fuori da eventuali modifiche della Corte, quello che ci sarà voi lo potremmo chiamarlo traslare. Legalicum. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale che lo boccerà. Legalicum. E comunque Oscar, qua vogliono andare tutti a votare, 5 Stelle vuol votare, no, Salvini vuol votare, Alfano vuol votare, Renzi secondo alcuni retroscena vuol votare. Questo lo vedremo presto, chi di loro è sincero, quindi perché il problema, sai, che alcuni al governo, non credo, cioè molti nel PD, da quello che scrivono i giornali. Il PD Bersani no. Non solo però, sai, anche componenti della maggioranza, quelli con cui ieri Renzi ha iniziato a confrontarsi, come scrivono le cronache, cioè i vari Franceschini e così via, sono tutti più cauti rispetto all'ipotesi di andare a contarsi davvero presto, perché il dilemma è, ma lo fanno su quale linea? Perché il problema è, lo fanno sulla linea di Renzi arrabbante che sostiene che il 40% dei voti sono suoi, oppure alcuni di loro iniziano a essere sfiorati dei dubbi, quindi bisognerà vedere in Parlamento. Di fatto se fosse vero la somma automatica, per così dire, dei 5 Stelle, sulla cui buona fede di voler andare a votare presto non credo si possano avanzare dubbi, è logico, è conveniente per loro ragionare così, però se fosse vero automaticamente l'attribuzione a Renzi di questa volontà e che il suo partito lo segue, 5 Stelle e Renzi sarebbero una comoda maggioranza per prendere quello che esce dalla Corte e adattarlo. Però sai, tra il dire e il fare in Italia, appunto, la politica, alleanze possibili, Toninelli, proprio sono escluse categorie, perché qualcuno oggi Bugani, leggevo per esempio, ha detto perché escludere a priori qualsiasi tipo di alleanza? Innanzitutto la promessa che faccio è che per noi i cittadini non sono voti, non hanno scritto elettore sulla fronte, ma sono cittadini e ne vanno valutati come persone e ne vanno realizzati gli interessi. Mi sembra che quando una forza politica ha il 40% di un pezzo tuo, vede le persone come dei voti ed è una cosa veramente indecente. Sulle alleanze noi sapete perfettamente che abbiamo votato centinaia di volte con gli altri partiti, proposte anche di altri partiti. Dobbiamo spostare il paradigma dalla poltrona al contenuto. Al programma. Buoni contenuti devono essere condivisi da tutti, se non lo fai ne risponderà l'elettorato. Purtroppo questo in Italia non quindi capita. se ci fosse un programma condiviso, per cui fanno un programma che piace, che è un po' in linea col vostro programma, secondo questa coerenza non è che potete dire no se valutate i programmi dei partiti. Con questa legislatura, con questi interlocutori che hanno fatto di ogni, facendo leggi porcate come il Jobs Act, la buona scuola, le leggi salva banche come ad esempio la Banca Etruria del padre della ministra Boschi e quant'altro, questi sono interlocutori inaffidabili, sleali e privi di credibilità. Quindi questi ragionamenti che oggi noi in questo momento stiamo facendo su condivisione di contenuti e progetti si possono fare esclusivamente dopo il voto, sperando che i vecchi partiti cambino la classe dirigente, cambino i propri esponenti, perché non se ne può più. Non se ne può più, va bene. Allora mantenete questa linea sul vostro programma. Va bene, ma cosa dire? C'è anche la questione della scelta del Premier, candidato Premier, se si andasse a votare. Ma lei sa che abbiamo un nostro metodo, rifiutando tutti i rimborsi elettorali e dimezzandoci pure gli stipendi, non possiamo mica fare le primarie chiedendo 2 euro ai nostri attivisti che già si svenano facendo banchetti, una serie infinita di grandi attività di partecipazione. Di conseguenza noi utilizzeremo i nostri strumenti, che sono le votazioni online, ci presenteremo, tutti i nostri centinaia di migliaia di iscritti si esprimeranno se vorranno e da qua nascerà la squadra. Certamente arriverà prima delle elezioni. Questo sì, va bene. Toninelli, noi la ringraziamo, Danilo Toninelli, insomma il web sempre. Grazie a voi, non solo il web, anche nei mercati e nelle piazze. Sì, no, certo, questo sì, però poi la scelta tra gli iscritti, insomma il metodo è quello utilizzato anche in passato. Sai, la sintesi è: chi nel PD crede alla versione renziana dirà li sbaragliamo, chi ha dei dubbi sulla versione renziana dice verremo sbaragliati. Questa è la differenza in Parlamento, oltre alla pensione, sui tempi per il voto. Sì, certo che a me colpisce veramente, poi magari lo sentiremo perché dopo avremo Stefano Esposito del Partito Democratico, colpisce anche veramente questo sport diffusissimo nel PD di accoltellarsi. Ma sai che ieri Bersani ha detto a Renzi stai sereno? Sì, ma c'è una cosa che neanche, vediamo se ce l'abbiamo in audio, senti Bersani. Tu ci credi che se fa una legge elettorale che va bene per tutti? Va bene. Insomma, io bisogna lavorarci per quello, basta che tutti capiscono che non puoi... Da voi la frase, non puoi mettere la camicia di forza una pentola a pressione. Hai capito? Quindi, ha detto. E adesso a Matteo che gli diresti? Stai sereno. Cioè, ma capisci? Cioè, proprio godono della disgrazia altrui, ma nello stesso partito. Beh, ma ripeto, però Alessandro, io lo so che chi non ha esperienza del partito non lo capisce. Ma no, ma lo la vita intera dei partiti male, è fatta per male. L'80% di accoltellamenti interni. Meno male per che il non 20% parte. Di accoltellamenti di nemici politici esterni, ma per l'80% di accoltellamenti sono interni. Sono molto felice di non essere iscritto a partiti. Hai fatto una buona scelta nella vita. Io ci sono passato per anni e figurati, in uno di quelli che ovviamente era... si ammantava come uno dei migliori, ma non era molto diverso, era semplicemente un po' più signorile, ma i metodi erano gli stessi. Il Partito Repubblicano, sì, perché è così. Poi figurati, nel PD oramai ci sono dei sopravvissuti a esecuzioni pubbliche rituali di 7 leader fa, perché se tu fai la lista, guarda che ogni volta ce ne sono 2 o 3 che sono saltati, a ogni ciclo politico che si votava, se li metti insieme dai Rutelli, Veltroni, D'Alema, eccetera eccetera eccetera. E è incredibile. Però allora, vedi la signorilità di D'Alema che dice che lui la direzione non va perché lui andrà a Bruxelles. Altro a Bruxelles da fare. Ma se Renzi torna? Oh, sono tornato. Vabbè, dai. Allora andiamo in pubblicità, poi riprendiamo gli ascoltatori. Claudio da Roma, Franco da Cremona. Un attimo di pazienza, tra poco. State ascoltando un programma offerto da BMW Innovation. Le risposte prima delle domande. Scoprile su innovation.bmw.it. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui alle 8:41, c'è Franco da Cremona che ci chiama. Buongiorno Franco. Buongiorno. Dica. Eccoci, dica. Buongiorno. Ma io volevo un attimo contestare Danilo. Non la sentiamo quasi per niente. Pronto? Sì, adesso pronto? Un po' meglio. Volevo contestare il modo di fare la trasmissione di Giannina. Direi che diciamo il suo livore verso il PD adesso potrebbe anche diminuire un po'. Perché? Verso Renzi. Ma dov'è il livore? E verso Renzi soprattutto. Ma dov'è il livore? Lei forse non se ne accorge. Certo, che sono anche inconsapevole, ma dov'è il livore? Passa ore e ore in trasmissione, su tutte le trasmissioni, ormai è presente ovunque con questa cosa. Secondo me diciamo sarebbe ora di darci il taglio. E magari chiedere, non so, al signor Toninelli, che ha parlato senza dire niente, perché non ha detto niente, ha detto che gli altri sono tutti brutti, sporchi e cattivi. Ha detto la posizione del 5 Stelle, che vogliono andare a elezioni subito, e come? Ha detto che già basta, schifo, che fa tutto schifo, insomma fa tutto schifo. Ha detto la sua posizione. Io sono un imprenditore, posso dirle che questo governo, certo non perfetto, con molte imperfezioni, qualcosa ha fatto. Diciamo che è la prima volta in 30 anni. Ma Franco, non è questo il bello? Cioè io non capisco questa cosa per cui uno non può dire le sue... Lei sta dicendo che non è d'accordo con Toninelli e che invece ha delle idee buone su questo governo. Lo sta dicendo. Cioè capisce che noi siamo banalmente liberi. No Franco, Toninelli ha detto le sue idee e lei sta dicendo che non è d'accordo, punto. Sono stanco del fatto che il suo collega continui in tutto il giorno, tutte le ore su Radio 24 con questo attacco a Renzi. Si è aperto Oscar. Vabbè, ma c'è una... C'è una via, no, io guardi, non mi calmo perché sono calmissimo. C'è una via, scriva all'editore di sollevarmi. Ma come no? Certo, ma è la via, e quando è così, lei crede, se crede che le mie siano critiche di merito, no, ma critiche perché sono incapace di intendere di volere, non mi contengo, deve scrivere, ma la prego, lo faccio, la garantisco, le garantisco davvero che se questa è l'impressione che do, ha ragione, ci mancherebbe altro. Va bene, grazie Franco, andiamo a Roma da Claudio. Buongiorno. Buongiorno. Io purtroppo la penso completamente all'opposto di Franco da Cremona. Mannaggia, che poi potrebbe sentire facciamo, altre 99... facciamo un referendum. Senta, no, potrebbe il Franco da Cremona, se sente tutte le altre televisioni, tutti i giornali al di fuori del fatto, vivrebbe nel paradiso dell'Eden, perché tutti danno ragione a lui. Allora perché s'accanisce su Radio 24? La lasciasse da parte. Io dico solo questo, è chiaro, lui essendo imprenditore, da come ha detto, non può che seguire il caro Moccia della Confindustria, Marchionne e compagnia bella. Boccia. Vabbè, boccia, comunque detto questo, come ha detto, scusi? Boccia, non Moccia. Ah, pardon. Allora io dico questo, il titolo del mio intervento era Il salto nel buio, no? Cioè la paura di questi personaggi a grossi livelli che sanno di fare loro un salto nel buio, perché... e perderanno la poltrona, i vitalizi e tutto quel ben di Dio che hanno da 3 anni a questa parte, anche sì. L'industriale di prima forse se n'è accorto. Io sto con Toninè, ho 63 anni, ho votato Movimento 5 Stelle e tra una ventina d'anni, visto che chi vota 5 Stelle dai 18 ai 34, è per cause maggiori il Movimento 5 Stelle dovrà andare al governo per forza, che ne voglia. Ah, dice perché sono i giovani, sono i giovani, prima o poi. So, ma poi l'ha sentito lo zoccolo duro, l'81% ha votato per il no. Il nostro Renzi può aver fatto qualcosa di buono a Paolo da Cremona, industriale, gli avrà fatto, che ne so, a lui del Jobs Act, della buona scuola, delle trivelle, forse non interessa, no, lui non è che vive interessa nelle cose belle che Renzi no, gli non ha non è che procurato. Interessa, forse le considera cose positive. No, lui le è chiaramente un interesse personale, a lui del sì faceva piacere. Vabbè, adesso, però non è qui a risponderle. Il gruppo dei nobili non stava nell'accozzaglia, lui stava con il Napolitano, che è il terzo presidente del Consiglio a cui fa caput. Poi io il pensiero di votare con un personaggio che è stato ministro degli interni e ha insabbiato tutte le parole dette da un certo camorrista rispetto alla terra dei fuochi, a me mi viene proprio il conato di vomito. No, va bene. Insomma, Claudio, lei, come vedete, i nostri ascoltatori sono molto divisi, caro. Sono pare diversi. Questo Oscar, però significa che abbiamo un pubblico trasversale che rispecchia l'Italia, e questo mi fa felice. Siamo, adesso non è che dico siamo liberi perché voglio fare noi, siamo liberi, perché siamo liberi nel senso che ospitiamo le opinioni di tutti, critiche, elogi, critiche, anzi, le critiche sono ben accette, sono meglio accette, così almeno possiamo rispondere. Stefano Esposito, senatore del Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, senatore Esposito è un renziano doc, si può dire anche no, adesso. No, mi dispiace, ma ve lo devo ripetere ancora una volta. Io non sono renziano, difendo il lavoro di questo governo, vado in giro a metterci la faccia, ma non sono renziano, ma non lo dico perché i renziani... quelli veri, poi si arrabbiano, solo per quello lo dico. Ecco, no? Cioè non è uno proprio del giglio magico, ecco. Però è sostenitore di Renzi. Neanche del girasole. Ma... Vabbè, insomma, però a cosa dobbiamo credere oggi? Al Renzi che leggiamo sulla stampa vuol fare l'anno sabbatico o al Renzi che leggiamo sempre sulla stampa 2 pagine dopo vuole prendere sto 40% con questo governo da dimissionario e andare a votare a febbraio? Cioè, che succederà, Esposito? Ma devo dire che stamattina anch'io mi è scappato un sorriso, non solo leggendo la stampa da una pagina all'altra, ma anche leggendo il titolo di Repubblica, che è il contrario di quello della stampa. Esatto. Francamente la politica... Infatti noi abbiamo gli ascoltatori che dicono che sono io che esagero. Io dico da giornalista, dico direttori, ma datemi una regolata perché sennò voglio dire... Ma tra l'altro il gruppo Stampa e Repubblica ormai è unico, quindi magari adesso io sono 2 giornali diversi. Parlatevi. Avere... Sai cos'è? Che la rincorsa al retroscenismo della... Produce mostre. Allora ce lo dica lei da prima persona. Io per quel poco che conosco Renzi, ho la sensazione che lui sia da un lato veritiera l'idea che abbia voglia di mollare un po', perché io credo che Renzi abbia colto, diciamo, il valore politico di questo voto e anche la portata di questo voto. Dall'altra parte c'è una discussione che ancora in realtà non abbiamo iniziato, e per fortuna domani ci sarà la direzione dentro il PD, che ovviamente rischia di trovare molti che legittimamente pensano che invece la partita che si deve andare a giocare sia una partita che richiede la presenza di Renzi. Io personalmente penso che intanto le scelte personali, sì, e quella la farà lui. Sul piano politico io credo che noi dobbiamo fare una cosa molto semplice, cioè garantire, come abbiamo garantito ancora ieri a Mattarella, che chiudiamo rapidissimamente la legge di bilancio. Ah, bene, e arriviamo a sabato, non è che arriviamo sabato, martedì? No, io spero, sì. Sì. Venerdì, sabato. Io, ovviamente dovremmo fare l'ennesima fiducia, ma va sì, bene così, va bene. D'altra parte. E poi? Mi pare che... E poi io penso che attendiamo se arriva la proposta del fronte del no sulla legge elettorale, perché io credo che abbiano su questo ragione Renzi, che l'ha detto nella notte tra domenica e lunedì, cioè i cittadini hanno votato. Tra l'altro il fronte del no ha fatto della legge elettorale uno dei punti qualificanti per votare no su, sì, questa riforma. Ma poi che succede, Esposito? Cioè, nel senso, la gente vuole sapere il voto. Oh. Io non sono per nessun governicchio. Quindi lei per il voto a febbraio? Per il voto a febbraio? Voto a febbraio, se non è febbraio, è marzo, metà marzo, ma insomma, secondo i tempi tecnici, ma niente di più che i tempi tecnici. Vede che già ci dà una lettura renziana, nel senso sì, secondo ma perché quali altre letture ci sono? Quelle di Berlusconi? Il governo tecnico, Padoan, che vorrebbe fare un governo, che imporre al PD di fare un governo perché lui non è pronto per andare a votare, perché deve ancora risolversi i problemi con Salvini e Meloni. Ma io credo che i cittadini hanno detto con chiarezza una cosa: hanno bocciato le politiche di questo governo, hanno bocciato la riforma, perché c'è una valenza politica in questo voto, inutile che si vada a votare. Dopodiché io non sono così convinto che il 60% di no sia un 60% per forza contro il di fronte alle elezioni politiche al Partito Democratico. Andiamo a vedere, anche perché sarà curioso vedere. Però anche il contrario, Esposito, guarda, c'è un messaggio, ce l'ho proprio davanti. Ho 32 anni, ho votato sì pur non votando Renzi, e di sicuro non voterò 5 Stelle, Gianluca da Brescia. Quindi non è che il mosaico è talmente da comporre che si comporrà poi anche sulla proposta politica. Io sono davvero curioso di finalmente vedere qualche proposta che non siano slogan, per esempio sull'immigrazione, perché sai, io vado un po' in televisione, no? Bene, ieri ho fatto una trasmissione televisiva, di fronte al tema dell'immigrazione sono riuscito a sentire da un autorevole esponente di Forza Italia che dobbiamo chiudere le frontiere. Io sono, quando sento queste cose, l'unica frontiera, noi le frontiere le possiamo chiudere al Brennero, al confine con la Francia. Quando fai la domanda, scusa, come la chiudiamo la frontiera sul mare? E allora lì comincia il panico. Tra blocchi navali, invasioni della Libia, no? E ne sentiamo di tutti. Vabbè, ma insomma, questo poi è iniziata già la campagna elettorale, Oscar. Però Esposito, posso fare un'osservazione dai giornali, da quanto dichiarato da esponenti delle diverse aree del partito, si capisce che non c'è solo un problema a destra, che è vero, è oggettivo, ha ragione a richiamarlo quello tra Salvini e Berlusconi sulla valutazione dei tempi diversi delle elezioni, no? C'è anche nel PD chi dice mica adesso dobbiamo andare a elezioni sotto la guida di Renzi, successo la linea sconfitta, non lo so, ci sono interviste, Michele Emiliano dice pronto a guidare i Dem ma ora pensiamo a rifare il centrosinistra, c'è Bersani che dice stai sereno, o no, oppure lei dice sì, sono i giornali che insidiano, ma in realtà no, Giannino, il problema non è questo, naturalmente Emiliano come Bersani hanno tutti titolo a dire la loro, ma domani noi facciamo una direzione. Tra l'altro siamo l'unico partito che ancora si riunisce con dei gruppi, con degli organismi dirigenti, no? In cui non si decide da qualche parte, no? Dove nessuno sa. Domani noi, di fronte all'Italia, come nostro costume, faremo una discussione. Emiliano ha fatto una campagna su questo referendum che sembrava, no? la campagna per la vita o la morte. Adesso si spiega che dovremo fare un governo, arrivare al 2018, traccheggiare, ma allora delle due l'una. Si è accolto anche lui il voto del popolo, il popolo ci ha chiesto di potersi esprimere, potersi scegliere un governo. È chiaro. Basta, basta, allora, mi dispiace. Si fermi qui, Esposito. No, si fermi qui. No, mi sì, sì, 10 secondi. Evitiamo di fare in Italia quello che abbiamo fatto a partire dal 2011, per cui non si può mai votare. E si voti? Non è che ci dobbiamo spaventare del voto, eh? Ah, no, ma è chiaro, si voti. Questa è la linea di Esposito, è una linea, pare, insomma, dal legge giornale, Oscar, di molti del PD. Dovremmo chiedere quindi più, dovrebbe essere la maggioranza, dovremmo credere più quindi a questa linea renziana dell'anno sabbatico, quella del andare a votare. Però domani chissà. Credo di domani sì. Chissà. Il problema non indifferente è chi resta al governo per gestire le elezioni. Come capisci uno che dice voglio Lotti perché vuole fare le nomine. Ma detto tutto questo, però la somma di maggioranza sarà PD, Padova, 5 Stelle e Salvini ci dice che al capo dello Stato arriverebbe indicazione voto presto. Voto presto. Staremo a vedere domani puntata nuova. Ciao.